inserisce appieno in quel programma di attuazione delle norme conciliari intraprese a Firenze inizialmente dall'arcivescovo Antonio Altoviti, di cui ricordo l'importante visita del 1569, e proseguito con zelo da Alessandro de' Medici. L'opera pastorale del Medici si esplicò infatti con profondità, oltre che attraverso i sinodi del 1589 e del 1603, tutti editi a Firenze nel 1603, anche mediante le numerose visite pastorali che intraprese fin dai primi anni del suo vescovato a Firenze. Infatti già nel 1575 il cancelliere Paolo Ciccarelli, canonico della cattedrale di Pistoia, iniziò una visita che toccò ben 14 pivieri della diocesi. Nel 1500 lo stesso Alessandro de' Medici ispezionò alcune chiese della città e altre visite parziali si susseguirono nel 1593 e nel 1601. Però, come ho già detto, quella del 1589 è senza dubbio la più interessante ed esaustiva fra quelle fatte seguire dal cardinale Medici. Gli atti della visita, che sono conservati presso l'archivio arcivescovile di Firenze, non riguardano solo le chiese parrocchiali della diocesi, ma anche gli ospedali, le confraternite laicali, le opere di carità e le chiese sinecura. La visita venne ancora una volta condotta dal canonico pistoiese Paolo Ciccarelli, che iniziò l'ispezione della diocesi, io tanto per darvi della diocesi di Firenze, questa è una ricostruzione che ho fatto, rindividuando tutti i pivieri della diocesi. E, appunto, iniziò questa visita il 12 ottobre del 1589, muovendo verso la zona del Chianti e visitando come prima chiesa la pieve di San Donato in Poggio. Potete visualizzare, è in basso della diocesi. La lettura dei verbali della visita mostra che la peregrinazione pastorale di Paolo Ciccarelli si svolse con criteri uniformi e sulla base di quanto era stato prescritto dal sinodo diocesano del 1589. Di regola l'ispezione fu più breve nelle piccole parrocchie, nelle cappelle, nelle oratorie, nelle chiese annesse a complessi monastici o conventuali, mentre fu più lunga e minuziosa nelle pievi situate in centri abitati importanti. Il visitatore, dopo aver annotato il nome della chiesa, il plebato di appartenenza, il patronato, la rendita, il nome del sacerdote demandato alla cura della parrocchia, del quale si investigava anche il giorno e la data della sua istituzione, si accertava in primo luogo se il Santissimo Sacramento e gli oli santi erano conservati in base ad atti in maniera degna, ed inoltre se il viatico veniva portato agli infermi secondo le prescrizioni sinodali. Il visitatore annotava, ad esempio, se in base a quanto detto nel sinodo, la pisside che conteneva la Santissima Eucaristia era d'argento o di rame dorato. Guardava inoltre al modo in cui erano addobbati gli altari, occupandosi ovviamente prima dell'altar maggiore, poi passando a visitare quelli laterali che generalmente erano, l'arredo era generalmente più carente e sommario. E in questi casi il Ciccarelli dava disposizione perché i paramenti logori indecenti e inadeguati alle prescrizioni liturgiche fossero rinnovati e che gli altari privi di suppellettili fossero o forniti della croce e dei candelabri o distrutti. Il visitatore riportava di solito, anche se sopra gli altari era situata una tavola dipinta di cui dava alcune indicazioni iconografiche e spesso anche una valutazione estetica, mentre raramente viene riportato il nome dell'autore del quadro. Io nelle chiese che ho analizzato, che sono 207, ho trovato una sola volta l'indicazione di un autore di un quadro. Altre volte l'ispettore annotava anche la necessità di sostituire o di restaurare tavole o crocifissi particolarmente consumati o appena leggibili e nel caso fossero stati da distruggere ordinava di bruciarli e di conservare le ceneri nel sacrario. L'interesse del visitatore era rivolto successivamente alle condizioni della chiesa. Inizialmente dava un giudizio generale sullo stato di conservazione dell'edificio, soffermandosi poi a verificare le condizioni del tetto, delle pareti e del pavimento. E anche in questo caso, se ritenuto opportuno, dava disposizione di restaurare e imbiancare l'edificio, riparare o chiudere porte e finestre, demolire i tramezzi se ancora esistenti. Non trascurava anche di indagare lo stato di conservazione della canonica, delle sepolture, del cimitero e anche del campanile della sacrestia. L'attenzione si rivolgeva poi all'archivio parrocchiale in modo speciale ai libri che il sinodo aveva prescritto di tenere per la registrazione dei battesimi, delle cresime, dei matrimoni, dei decessi e dello stato d'anime. Infine, i verbali ci forniscono tutta una serie di notizie di vario genere che possono riguardare la costruzione di nuovi pulpiti o fonti battesimali, il dono di un paramento, di un piviale, insomma cose di vario genere. Quindi indubbiamente attraverso questa visita del Paolo Ceccarelli, Alessandro De Medici venne a conoscenza con esattezza ed ampiezza di particolari di quale fosse la reale situazione organizzativa, morale e religiosa della diocesi, e nello stesso tempo ebbe molti dati utili per la valutazione obiettiva dei problemi più urgenti da affrontare. Le prime disposizioni per l'adeguamento degli usi liturgici e della vita religiosa alle disposizioni del Concilio di Trento e del Sinodo diocesano furono del resto già impartite durante la visita, facendo constatare ai sacerdoti le deficienze sia materiali che religiose della loro parrocchia. Già nella tesi avevo organizzato i dati ricavati dai verbali della visita pastorale del 1589 in una scheda che cercava di fornire una visione articolata della situazione delle chiese e in parte già pensata per un'eventuale trasposizione automatica. Come vi ho già detto più volte, appunto quella del Ceccarelli fu una visita minuziosa e ricca di riferimenti che permettono di ricostruire non solo la storia ecclesiastica in genere, ma anche certi aspetti della storia della religiosità, del costume e della società e della vita materiale. In considerazione di questa, la scheda è elaborata nella tesi, che qui vedete, io non vi sto ad illustrare, vale voce, le potete scorrere da voi, cercava di valorizzare tutte le informazioni che potessero essere utilizzate sia nel campo storico che artistico. Una particolare attenzione avevo riservata agli atti relativi alle pievi, che forniscono indicazioni più ampie rispetto a quelli delle parrocchie, per le quali avevo approntato una scheda specifica che prevedeva tre voci in più rispetto a quelle delle parrocchie, le voci cappello, ospedale e fonte battesimale. Per quanto mi riguarda, da questa prima bozza al passaggio alla scheda per l'automazione, il passaggio è stato abbastanza indolore e breve. Nell'approntare infatti il progetto ho cercato di rielaborare questa scheda in modo che potesse rispondere, anzi prego. In modo che potesse rispondere a una serie di esigenze che io almeno ritengo fondamentali. Prima di tutto consentire allo studioso un accesso rapido a una grossa mole di informazioni. Secondo, fornire indirizzi tematici di ricerca. Dare la possibilità allo studioso di formulare domande che rispecchiano i suoi interessi specifici attraverso una consultazione online della banca dati. E nell'ambito di un'applicazione della scheda ad altre visite pastorali, consentire la realizzazione rapida di relazioni tra gli atti relativi ad una stessa parrocchia ma contenute in visite diverse, allo scopo di ottenere un quadro diacronico della situazione. Eseguire ricerche non possibili con i tradizionali metodi di inventariazione e quindi pervenire anche a un eventuale riordino dei documenti stessi e infine ottenere una consultazione anche a distanza di questo materiale attraverso la pubblicazione di indici a stampa. Ora, tenendo presente queste esigenze, ho scelto il sistema che allora, ma per quanto mi riguarda per le mie conoscenze, credo tutt'oggi, mi sembrava rispondesse maggiormente alle esigenze sopra elencate. Il sistema CDS ISIS, che è prodotto dal Servizio Librario Archivi e Documentazione dell'UNESCO ed è stato depositato nel 1980 presso la Scuola Normale di Pisa, che ne è diventata il primo distributore per l'Italia. Questo programma, secondo me, aveva anche il vantaggio di essere distribuito gratuitamente a tutti gli istituti che non hanno ovviamente fini di lucro, e gli altri distributori sono diventati anche la Biblioteca di Documentazione Pedagogica di Firenze e la Regione Toscana Servizio Beni Librari. Ora io brevemente vi vorrei dare qualche accenno su questo sistema anche per illustrarvi insomma, determinate scelte. Il sistema ISIS è un sistema integrato per la gestione e il recupero di basi di dati non numeriche strutturate, e una base di dati, come tutti sappiamo, è costituita da un insieme di dati correlati che sono acquisiti per soddisfare un particolare tipo di utenza. Può trattarsi di un semplice indirizzario come di un catalogo, di biblioteca o di opere d'arte. Tutte le informazioni contenute nelle basi di dati ISIS sono modellate in records, insieme informativi o documenti come volete chiamarli, suddivisi in campi che definiscono le caratteristiche specifiche di ogni entità descrittiva e sono logicamente correlati fra loro. I records sono identificati dall'insieme delle informazioni che contengono e per questo AISIS fa parte di quei sistemi cosiddetti di information retrieval, cioè di recupero delle informazioni, e ha trovato un'amplissima applicazione, almeno in Toscana, ma per quanto conosco anche nel resto dell'Italia, per quanto riguarda la catalogazione delle biblioteche, degli archivi, dei musei e così via. Ultimamente poi AISIS ha avuto un'ulteriore diffusione perché è stato approntato da 3-4 anni una versione anche per personal computer, quindi non c'era solo la necessità di avere grossi computer a disposizione. Brevemente, AISIS permette la modellazione di un archivio di dati secondo le esigenze dell'utente che nella fase di definizione dell'archivio imposta la tabella di definizione dei campi che comporranno ogni documento, la Field Definition Table, e il formato delle schede per introdurre i dati, la worksheet, e la tabella di selezione dei campi significativi, ovvero la tabella che definisce i criteri di costruzione del dizionario, la FST o Field Selection Table, e che permette l'elaborazione di indici ordinati alfabeticamente o cronologicamente fino a 4 livelli di relazione. Infine ancora il formato di stampa e la visualizzazione dei dati. È da sottolineare che ogni record può essere costituito da uno o più campi ripetibili e suddiviso in più sottocampi. I campi ripetibili sono previsti qualora vi siano ricorrenze di informazioni omologhe. Faccio un esempio a me familiare, cioè più artisti, autori di uno stesso quadro che io voglio trattare però non allo stesso livello. E questo permette sia in sede di ricerca che ordinamento a stampa o stampa di trattare uniformemente allo stesso livello tutte le occorrenze. I sottocampi invece servono per scomporre le informazioni in sottoinsiemi e questa scansione permette di manipolare le informazioni in forma semplice o combinata in funzione dell'ordinamento e della stampa. Infine, AISIS permette la ricerca online effettuata attraverso l'utilizzo di operatori booleani, land or not, gli addetti ai lavori sono abbastanza famosi, o di tipo contestuale. AISIS ha un'interfaccia utente di tipo testuale, grosso modo io l'ho schematizzata così, ma la maschera che si presenta è quella di quadro centrale, c'è la possibilità di scegliere fra 4 lingue, l'inglese, l'italiano e lo spagnolo, e poi ci sono varie opzioni che guidano passo passo appunto la creazione dell'archivio, e specificatamente la lettera D appunto serve per definire o modificare i parametri di un archivio, poi a sua volta appare un altro menu dove si ha la possibilità di fare ulteriori scelte, c'è l'opzione per l'inserimento dei documenti, per la correzione, c'è quella che serve per fare appunto gli indici per la stampa e così via. E anche per darvi un'altra idea, questa è la Field Definition Table che è stata fatta per le visite pastorali, con un editore di linea viene stabilito il tag, cioè il numero che identifica ogni campo, viene dato il nome, la lunghezza del campo, viene definito se è un campo di tipo alfanumerico, numerico, a solo caratteri alfabetici, se è ripetibile o non ripetibile e i vari sottocampi. Nell'ultima parte appunto le lettere stanno ad identificare altrettanti sottocampi. Ciò che è interessante mi sembra che queste, l'FDT come le altre cose possono essere modificate in qualsiasi momento, il sistema riporta appunto automaticamente tutti i cambiamenti anche sulle altre strutture dell'archivio, ovviamente salvo che non siano proprio di grandi, diciamo, grandi variazioni, per cui bisogna in qualche modo intervenire anche sulla worksheet, cioè sulla maschera di emissione dei dati e sulla Field Selection Table per la costituzione degli indici. Nell'approntare la scheda, il problema più contingente che mi sono trovata ad affrontare è stato quello del livello di analisi da adottare nel riferire i dati dei singoli atti. Un problema di difficile soluzione data la ricchezza della fonte, difficilmente riducibile a uno schema che esaurisca tutte le informazioni possibili. Tuttavia ho creduto opportuno effettuare una scelta di quelle informazioni che potessero fornire un quadro esauriente della situazione della parrocchia, senza entrare troppo nel dettaglio, dato che uno degli scopi che mi ero prefissata era quello di realizzare uno strumento di lavoro agile e semplice che fornisse allo studioso le informazioni di base, ma che rimanda alla consultazione diretta della fonte per ogni eventuale e necessario approfondimento. È ovvio che in questa fase è entrato in gioco una buona dose di soggettività e forse nel mio caso la scheda rispecchia un po' la mia formazione storica-artistica, mi sono laureata in storia dell'arte, quindi ovviamente avevo un occhio di riguardo in quel senso. Il tracciato che ho elaborato è stato testato non solo sul nucleo delle chiese considerate nella mia tesi, che erano 130, ma anche su un altro centinaio di parrocchie per un totale di 207 sulle 640 che costituivano la diocesi di Firenze nel 1589. Qui avete le zone più scure, sono quelle che sono state analizzate, che per puro caso sono quelle che circondano, sono i pivieri immediatamente circostanti a Firenze e la zona meridionale della diocesi, quella della Valdelsa. Accanto avete l'elenco appunto dei pivieri con il numero, fra parentesi, delle parrocchie memorizzate. Ecco, ora vorrei far vedere il tracciato, la struttura della scheda utilizzata per l'automazione degli atti della visita pastorale e darvi alcune indicazioni. La prima parte della scheda, dopo l'indicazione della segnatura archivistica e della data della visita, che è stata data anche in forma codificata per un eventuale ordinamento cronologico degli atti e così ad esempio eventualmente avere l'itinerario del percorso fatto dal visitatore, è dedicata alla registrazione del titolo della chiesa con la specifica del toponimo e della dignità ecclesiastica, delle chiese annesse e delle annessioni, del piviere e del patronato. Nella seconda parte vengono invece riportati i dati che illustrano lo stato finanziario, campi rendita, espressi in scudi e decime prediali, e demografico della parrocchia, campi abitazione e stato delle anime, che comprende anche le anime a comunione, il totale delle anime, cioè anche comprensivo dei bambini che non erano passati a comunione. Un paragrafo a sé poi è dedicato alle cappellanie presenti nella chiesa, istituite di regola ad un altare con particolare attenzione al patronato delle stesse. Il campo clero registra i dati sul personale ecclesiastico che a qualsiasi titolo compare nell'atto della visita e del quale viene precisato il ruolo, di pievano, priore, rettore, cappellano, officiante, sacrista, eccetera. E il luogo di provenienza, nonché altre notizie come la data di istituzione se risiede nella parrocchia. I due campi successivi riportano notizie attinenti allo stato di conservazione della chiesa e sono dati che si riferiscono in genere alla conservazione del tetto, del pavimento, delle finestre e delle pareti, sono registrati nel campo osservazioni architettoniche, e alle strutture delle stesse della chiesa, quindi sul fonte battesimale, su sepolche, sul portico, il cimitero e così via, nel campo componenti architettoniche. In quest'ultimo campo sarebbero dovute rientrare anche le notizie sugli altari, tuttavia ho preferito in questo caso particolare creare un campo a sé, data la ricchezza dei dati e l'importanza, almeno dal mio punto di vista, di questa componente, registrandone oltre al titolo, purtroppo non sempre specificato, la data della fondazione, la collocazione all'interno della chiesa, la rendita, il patronato e le immagini sacre delle quali sono indicate il titolo, il supporto e il loro stato di conservazione. L'ultima parte del tracciato di memorizzazione è dedicata alla registrazione delle istituzioni laicali, con sede sia nella chiesa che in oratorio o in altri luoghi della parrocchia, campi, compagnie, opere e altre istituzioni pie, e poi per la registrazione degli oratori, il quale viene specificato sempre il patronato, le immagini, il toponimo, delle chiese sinecura, degli ospedali, altre istituzioni pie, altri luoghi pie, e poi ho previsto un campo contenitore, varie, nel quale vengono registrate tutte quelle informazioni che non rientravano in qualche modo nei campi precedenti, quindi non so, la donazione di un paliotto, di una paineta, tutte le notizie che concernono le processioni, le feste religiose e così via. La sperimentazione di questa scheda sul medesimo campione di chiesa in visite pastorali di altri periodi, che purtroppo non è mai stata fatta, potrà portare ad eventuali aggiustamenti, modifiche, integrazioni o snellimenti del tracciato, rendendolo, si spera, pienamente idoneo alla registrazione dei singoli atti di visita, qualunque sia il loro periodo di redazione. Questo è un esempio invece di una scheda, di una chiesa a caso, come ISIS permette anche di dare tipograficamente, quindi uno può con ISIS dare tutti i parametri per la stampa e poi mandarlo direttamente in tipografia, così come gli indici, eccetera. Dall'elaborazione dei dati è stato possibile ottenere una serie di indici che offrono un'ampia gamma di possibilità e di utilizzo e di ricerca. L'immediato recupero del lato relativo alla singola chiesa è reso possibile sia dalla generazione di indici a struttura semplici, che restituiscono l'elenco alfabetico delle chiese parrocchiali componenti la diocesi di Firenze, secondo diverse chiavi di accesso, per titolo, e qui viene data appunto l'elenco alfabetico dei titoli con la specifica sotto del toponimo, del piviere di appartenenza, la segnatura archivistica, e poi c'è la segnatura, quel documento, il numero dietro, è riferimento al documento elettronico che uno può sempre andare a ricercare nella banca dati. Così come c'è questo indice per titolo, c'è un indice per toponimo, quindi sotto Lucardo ci sono tutte le varie chiese, e per piviere. Quindi uno può avere una sintesi delle chiese che appartenevano a un determinato piviere. Le indicazioni sono più o meno le stesse, oppure per dignità ecclesiastica. Poi gli indici che si possono fare sono molteplici, qui c'è un campione abbastanza ampio, ma non di tutti quelli che si potevano fare. L'elaborazione dei dati in base ai parametri definiti ha permesso di ottenere anche tutta una serie di indici più complessi a più livelli di analisi. Attraverso l'indice del patronato, ad esempio, relativi non solo alle chiese, ma anche alle cappellanie, agli oratori, agli altari, agli ospedali, si ottiene una panoramica globale sul potere e l'incidenza che determinate famiglie esercitavano nella vita della parrocchia. Per quanto mi riguarda, un caso significativo, tanto per farvi un esempio, è quello della famiglia Bondelmonte, forse una delle più famose almeno in Toscana, che possedeva il patronato di ben 5 chiese, fra cui 2 pievi e l'importantissima chiesa pieve santuario di Santa Maria in Pruneta, nonché all'interno di questa ben 11 cappellanie. Poi mi sono divertita, diciamo così, a fare un grafico nel quale vengono riportati suddivisi per categorie appunto l'incidenza dei patronati. Le famiglie, come si può ben vedere, avevano la maggior parte del patronato delle chiese insieme al popolo, mentre in basso c'è un altro grafico che incrocia il patronato delle chiese con quelli degli altari. Anche qui è abbastanza significativo come le compagnie e le opere avevano un buon numero di patronati degli altari, mentre ad esempio il popolo aveva un buon numero di patronati delle chiese, ma nessun patronato di altari, e così se ne potrebbero fare mille, ecco, di incroci. In alto c'è quello un po' più riassuntivo, in basso c'è un semplice esempio di incroci. Le visite pastorali si pongono come una delle fonti anche attraverso le quali ottenere informazioni sul clero presente in una diocesi. L'indice relativo mette a disposizione l'elenco ordinato alfabeticamente dei sacerdoti operanti in una diocesi e consente anche di evidenziare se una stessa persona aveva più di un incarico o se era o no residente in una parrocchia. Qui c'è appunto il nome e poi tutte le varie notizie che ho trovato nei singoli atti. In relazione a questo indice se ne possono ottenere altri due, quello del ruolo, quindi abbiamo l'elenco, non so, di tutti i pievani che operavano in quel periodo nella diocesi con analoghe indicazioni specifiche, e quello anche del luogo di provenienza. Così ad esempio nel caso delle chiese analizzate la maggior parte dei sacerdoti veniva ovviamente da Firenze, ma non mancavano anche sacerdoti forestieri provenienti dalle diocesi toscane di Arezzo, Fiesole, Lucca, Sarzana, Volterra, da quelle della vicina Emilia Romagna, Faenza, Bertinoro, Forlì e da città come Pavia, Urbino, Bologna e Brisighella. Le visite pastorali sono altresì fonte primaria insieme agli stati d'anime per lo studio dello stato economico e demografico di una determinata zona geografica, e così sono stati fatti anche degli indici sullo stato delle anime, sulle abitazioni e sulle rendite. Credo che questi dati qui sarebbero ancora più significativi, ovviamente se fatti in diatronia su altre visite, però insomma, tanto per darvi un esempio di quello che può venire fuori. Quindi qui si può avere un'idea delle chiese che erano più ricche in questo periodo e non a caso sono delle pievi, Sant'Alessandra Giogoli, San Giuliano VII, San Martino Abrozzi, e poi c'è il caso particolare di Santa Maria Mantignano, che ha una rendita addirittura di 1000 scudi, ma giustificata dal fatto che era di jus patronato di un monastero, il monastero di Santa Polonia di Firenze. Interessanti mi sono sembrate anche la costituzione di indici sui campi osservazioni architettoniche e componenti architettoniche. Il primo sulle osservazioni, se vado troppo veloce nel spostarvi gli indici, ditemelo, delle osservazioni architettoniche, restituisce notizie riguardo alla struttura della chiesa e sono di particolare significato per chi voglia, ad esempio, ricostruire la storia dei mutamenti architettonici, dei restauri effettuati e dello stato di conservazione in un determinato periodo. Qui c'è perlomeno un'indicazione più o meno sintetica in questo senso. Fra gli indici generati vi sono poi quelli, c'è anche l'altro sulle componenti architettoniche, ecco, magari tanto per darvi un'idea, uno può avere una, non so, gli interessa fare uno studio sui campanili, qui ha un po' tutte le tipologie dei campanili a torre a vela con una, due, tre campane, con le funi collocate sopra la porta d'ingresso, al lato dell'altar maggiore, qua c'è un caso abbastanza singolare, nella chiesa di San Martino a Campo ho trovato che le funi erano sopra l'altar maggiore e davano fastidio al celebrante, mentre era una cosa abbastanza singolare. Ecco, fra gli indici generati vi sono poi quelli relativi alle compagnie, agli oratori, agli ospedali, all'immagine. L'indice delle compagnie consente di avere un'immediata mappa di questa importante e diffusa espressione di partecipazione del popolo alla vita parrocchiale. L'elenco delle compagnie che qui sono state ordinate secondo il titolo, ma che potevano essere raggruppate anche per parrocchie, restituisce una sintetica indicazione dell'ubicazione della sede in cui la compagnia si riuniva, erano per lo più gli oratori attigui alla chiesa, la data della fondazione, se possedeva capitoli e l'eventuale data d'approvazione, il colore degli abiti indossati dai membri, se era mista e eventualmente anche la rendita. Nei casi che ho riscontrato, ad esempio, in questo periodo ovviamente risultano diffuse le compagnie legate al grande tema devozionale mariologico, quindi quelle del Santo Rosario, della Santissima Concezione, della Santissima Annunziata, e a quello cristocentrico della Passione, quindi compagnie della Santa Croce, mentre a cui si affiancano poi quelle del culto del nome di Gesù. Risultati analoghi a questi si possono avere anche per l'indice degli oratori e degli ospedali, che non vi mostro, però degli ospedali vorrei far vedere, poi ho fatto una trasposizione in pianta e è venuto fuori, data abbastanza credo ovvio, però che la maggior parte degli ospedali erano disposti prevalentemente sulle direttrici più importanti che collegavano Firenze a Pistoia, la strada pistoiese con i due rami passanti, quello inferiore per Poggio a Caiano e quello superiore per Prato, Firenze a Pisa a Livorno, che è la strada pisana e livornese, poi Firenze a Siena, la strada romana, e poi anche sulla traversa romana, che è quella che vedete, il collegamento fra Pisa e Siena, ecco, che ricalca all'incirca l'antica via Francigena. Quindi abbastanza, c'è solamente qualche altro, mi sembrava un dato abbastanza interessante. Poi c'è l'indice delle immagini che restituisce l'elenco dei soggetti iconografici presenti sugli altari delle chiese e degli oratori, interessanti non solo per vedere la diffusione di determinati soggetti, ed è naturale che prevalessero i soggetti dedicati alla Madonna, poi c'è Madonna e Santi, poi via via gli altri dedicati ai Santi, ma anche per recuperare eventualmente l'antica collocazione o vedere se erano oggetto di particolare culto. Prevalgono le raffigurazioni dipinte su quelle scolpite, c'è una buona corrispondenza fra i temi iconografici e le intitolazioni degli altari, almeno per quanto mi è stato possibile vedere. Riguardo in particolare alle intitolazioni degli altari, su 449 altari schedati, il 18% sono dedicati a santi, il 14% hanno intitolazioni mariane, il 6% cristologiche, l'1% hanno intitolazioni varie, un buon 16% non hanno titolo specificato, quindi c'è da tenere presente anche questo, e poi la gran parte, il 42%, sono altari maggiori. Infine, l'ultimo indice che vi faccio vedere è quello relativo a quel campo contenitore che vi dicevo, quelle varie, nel quale si ha un'idea, ad esempio, l'elenco delle reliquie, l'elenco delle feste, chi appunto ne curava l'organizzazione e così via, le processioni, insomma, si hanno notizie di vario genere. Gli indici predisposti per questa banca dati sono stati strutturati tenendo conto che le informazioni si riferivano ad un'unica visita pastorale. È ovvio che in previsione di una memorizzazione di più visite si potranno generare indici nei quali le informazioni potranno essere ordinate cronologicamente sotto il titolo della Chiesa, che costituirà, a mio avviso, l'unità base per ogni tipo di indicizzazione. L'ultimissima cosa, due parole su alcuni problemi che in parte sono venuti fuori anche ieri, ma che vorrei ripuntualizzare. Uno di questi è quello relativo all'esatta interpretazione delle informazioni contenute negli atti visitali, che sono redatti per la maggior parte in latino. Un latino ecclesiastico, disomogeneo e vario a causa anche dell'ampiezza dell'arco cronologico delle visite. Per cui uno studioso, prima di passare a compilare le schede, si trova nella necessità di effettuare uno studio preliminare sul lessico usato in quella determinata visita. A questo problema, a mio avviso, si aggiunge la necessità di utilizzo di un linguaggio normalizzato che, come ben noto, ricorre in tutti gli interventi di elaborazione elettronica e che deve essere tenuto sempre presente per garantire la massima funzionalità della ricerca. Sarebbe quindi opportuno approfondire lo studio di standard di linguaggio da adottare nella schedatura degli atti di visita pastorale, onde facilitare la ricerca e abbassare il rischio di perdere informazioni significative. Infine, un ultimo problema, che in parte ho già accennato, è quello di definire il livello di analisi da adottare nella registrazione degli atti, che appunto, come ho già detto, credo sia un problema di non facile soluzione data la ricchezza di questa. Con questo, scusate se vi ho rubato un po' di tempo.